L'uomo privo di senno. Chi è l'uomo privo di senno? Non sono io, neppure tu. E l'altro. Il dizionario definisce privo di senno colui che è un folle e un imprudente che non è avveduto. E dato che tutti, a nostra volta, siamo stati imprudenti o abbiamo mancato di avvedutezza, questo argomento ci riguarda da vicino. Certo che comportamenti privi di senno se ne vedono ovunque. Quando dei giovani danneggiano lampioni e impianti dell'illuminazione causando a volte dei blackout, quando dei cassonetti dei rifiuti sono incendiati in nome di presunte giuste cause, quando parole volgari sono incise su auto in sosta, o i gerani delle aiuole del comune strappati o e buttati in una scarpata non sono forse comportamenti di chi non ha senno? Nel mio paese per molti mesi un uomo volendo attirare l'attenzione degli addetti comunali defecava in un angolo buio della strada sollevando l'indignazione delle persone del quartiere fino a che il comune non ha messo un lampione per illuminare l'angolo. Che cosa voleva ottenere quella persona e il suo comportamento era forse sensato? Se c'erano delle rimostranze, queste si potevano esprimere in un altro modo. Ecco perché trovo non solo insensato ma anche indecente il comportamento di coloro che in certe manifestazioni distruggono ogni cosa, incendiano macchine, rompono vetri. Il mio stupore si rivolge non solo a loro ma anche alle forze politiche e sociali che, benché disapprovino tali gesti, non fanno abbastanza per impedire simili espressioni di violenza. Viviamo in una società talmente insensata a tutti i livelli che spesso non si riconosce più chi è insensato. In questa confusione etica si fa strada la delinquenza giovanile, la quale, secondo quanto fanno notare gli esperti, non sempre riguarda gruppi strutturati e capeggiati da un leader, ma per lo più si tratta di reati che spacciano dalle estorsioni alla rapina da strada, ai furti, alle risse, alle violenze sessuali nei confronti delle ragazze legate agli appartenenti di gruppi opposti. Sono comportamenti insensati prima di essere amorali, perché il buon senso dovrebbe farli evitare. Se poi subentra la cultura, comprendere quando uno è insensato è ancora più difficile. Ho letto di un infermiere musulmano che si rifiutava di ubbidire agli ordini della caposala solo perché era una donna, e questo nel nome di Allah. Meno male che l'Islam è plurale, e non è solo quello dei mufti, dei talebani o dei predicatori amati dai media. Perché le cose vadano meglio, spesso basterebbe un poco di senno, ma com'è possibile appellarsi al senno se l'uomo è generalmente insensato? La soluzione non è facile. La parola di Dio prende in esame l'uomo privo di senno e ne traccia un aspetto che interessa tutti. PR 11 e 12. Chi disprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. La stima è un bene prezioso che deve essere difeso, perciò non stimare il prossimo significa venire meno a uno dei compiti più importanti. Il proverbio mette in evidenza che quando si disprezza il prossimo non necessariamente si dicono delle bugie, perché uno spunto di verità ci è sempre. Ma piuttosto vuole far comprendere che la saggezza consiste nel non rivelare le mancanze altrui. Se un marito è disordinato, la moglie saggia non deve sventolarlo ai quattro venti, come se rivelare le debolezze del coniuge fosse una virtù. Allo stesso tempo, un marito saggio non si lamenterà di avere una moglie smemorata. Conosco delle persone che non sono convinte di disprezzare il prossimo, anche quando lo fanno, ma se considerassero alcuni sinonimi del verbo disprezzare quali disdegnare, umiliare e denigrare, comprenderebbero che disprezzare vuol dire mettere in cattiva luce o presentare il prossimo in modo negativo. E questo comportamento è veramente PR 12:11. Chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi, ma chi va dietro i fannulloni è privo di diri. Il lavoro è sacrosanto per Dio, egli non ama i fannulloni, e un uomo pigro, ozioso, che segue gli scansafatiche, non serve né al mondo né a Dio. Purtroppo sono pochi coloro che apprezzano il lavoro o la necessità di lavorare, anche perché la nostra società non incoraggia a guadagnare con fatica. Parlavo con un giovane che voleva cambiare lavoro. Alla mia richiesta di che cosa cercasse, La risposta non si è fatta attendere. Cerco un posto dove si lavora poco e si guadagna molto. E, sorprendente come questa mentalità si sia insinuata nella generazione di oggi e per di più sia considerata giusta, perciò non c'ente, è da stupirsi se i giovani di oggi, se anche non vanno letteralmente dietro ai fannulloni, inseguono lavori dove si faccia il meno possibile. Il dramma di molte persone, sia giovani sia adulte, è che lavorano con il desiderio di non lavorare. Questa è proprio mancanza di senno. Perché il lavoro si svolge con doppia fatica, e il periodo lavorativo, che è circa un terzo della vita meno, si trasforma in una condanna, mentre invece il lavoro è un grande dono di Dio per realizzare se stessi. Tra i gesti privi di senno dell'uomo, ve ne è uno che è tra i più frequenti, eppure è ritenuto un comportamento normale se non addirittura di furbizia. PR 6:32. Chi commette un adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuol rovinare se stesso. Molto spesso la parola di Dio si riferisce all'adulterio, un tasto questo che non vorremmo mai ascoltare. Eppure l'adulterio è uno dei gesti più insensati dell'uomo. Questa sentenza della Scrittura è molto difficile da accettare, sia perché in fondo una relazione extraconiugale non è poi così spiacevole, sia perché in fondo meno si dice meno non si fa del male a nessuno. Proprio perché vi è la tendenza di avere questa opinione in merito all'adulterio, è opportuno considerare la ragione per la quale Dio considera l'adulterio un atto insensato. Può un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? O può un uomo camminare su carboni accesi senza bruciarsi i piedi? Così è di chi va dalla moglie di un altro. Chi la tocca non rimarrà impunito. Non si disprezza il ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame. Ma se viene colto in fallo dovrà restituire 7 volte e dare tutti i beni della sua casa. Ma chi commette adulterio con una donna è privo di senno. Chi fa questo distrugge la sua stessa vita. Troverà ferite e disprezzo. E la sua vergogna non sarà mai cancellata, perché la gelosia rende furioso il marito. PR 6, 27-33. E, da notare che in questo caso la valutazione della Scrittura in merito all'adulterio non è tanto moralista, cioè non sostiene che l'adulterio è sbagliato perché lo ha detto Dio, ma la Scrittura mette in evidenza delle ragioni pratiche per le quali è insensato commettere adulterio. Come per chi si avvicina troppo al fuoco ne porta delle triste conseguenze, così che commette un adulterio non può rimanere illeso. Infatti, anche se si tratta di fatti sporadici in confronto alla mole di adulteri commessi, di tanto in tanto la cronaca ci riporta di un marito geloso che uccide l'amante, o la moglie, oppure tutti e due. E poi ci stupiamo di questi fatti di cronaca. Inoltre, la Scrittura giustamente fa notare che certe altre mancanze, meno come il furto per soddisfare la fame colto, sono rimediabili. Ma un adulterio è una colpa che disonora per sempre chi lo commette. E, vero che oggi l'adulterio non è più considerato una grave infamia, ma anche torturare e uccidere i cristiani non era una infamia. Eppure ciò che è sbagliato lo rimane per sempre. Perciò è meglio sembrare di avere torto oggi e avere ragione per sempre, che sembrare di avere ragione oggi e torto per l'eternità. E questione di scelta. Anche se l'uomo privo di senno non ha nulla da insegnare, il credente accorto trae dal suo esempio almeno 7 lezioni. 1. Acquistare senno è sintomo di amore. PR 19:8. Chi acquista senno ama se stesso. Chi non ha senno compie cose sbagliate e si fa del male, perciò è evidente che chi acquista senno si fa del bene e ama se stesso. Chi non ama se stesso non può amare il prossimo. 2. Solo con il senno si può amare. PR 19:11. Il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Passare sopra alle offese è sintomo di grande autocontrollo ed amore. 3. Il senno procura lode e aiuto da parte del prossimo. PR 12:8. L'uomo è lodato in proporzione del suo senno, ma chi ha il cuore pervertito sarà disprezzato. PR 13 e 15. Buon senno, procura favore, ma la via dei perfidi è senza fine. Se non siamo considerati né aiutati, forse è il momento di riflettere se abbiamo un comportamento. 4. Il senno si acquista ascoltando e accettando l'opinione degli altri. PR 15 e 32. Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista. La vita è scuola di riprensione. Si è ripresi dai genitori, dai professori a scuola, dai colleghi sul lavoro, dal proprio partner, si è ripresi dai figli e dagli amici e quel che più conta, si è ripresi da Dio. Solo chi è umile ascolta la riprensione, e l'umiltà è il risultato della saggezza e del senno. 5. Il senno va conservato. EC 7:7. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio, e il dono fa perdere il senno. Sotto la morsa del dolore è facile diventare insensati, come è facile perdere l'obiettività quando si ricevono dei doni o dei favori. Occorre molta prudenza per non diventare insensati. 6. Il senno è un bene prezioso. PR 16:22. Il senno è una fonte di vita per chi lo possiede, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Essendo sensati, si evitano tanti dolori e imprevisti. La vita deve essere vissuta intelligentemente e con saggezza per poterla gustare in tutti i suoi aspetti. A essere stolti se ne portano le conseguenze. 7. Il senno va richiesto a Dio. Il salmista pregò. SL 119:66. Concedimi senno e intelligenza, perché ho creduto nei tuoi comandamenti. Una volta compreso il valore del senno, lo si chiede a Dio, perché l'obiettività e la prudenza non sono mai troppe. Chiediamo a Dio il senno senza dubitare. È evidente che una richiesta del genere presuppone che siamo coscienti di non averlo. Siamo convinti di non possedere ciò che fa parte del senno, e cioè il discernimento, la prudenza, l'obiettività, un giusto criterio e capacità di riflessione. Dalla risposta dipende la qualità della nostra vita. Gennaio 2007. Ellero.